tutti gufano e tutti gufiamo, e quindi mi sembra una cosa abbastanza normale. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Parte di Khedira e poi Mandžukić, 2-1 Juve, la legge di Mario Mandžukić la capovolge lui. Higuain, Higuain non sbaglia, un'altra doppietta per il Pipita, 3-1 Napoli. Rientra sul sinistro Ilicic, fa sognare ancora la Fiorentina, 2-0. Parte Candreva, il tiro, Andanovic, ancora Candreva, rete, Lazio in vantaggio. Beh, un bel pacco regalo per Natale, su cui l'Inter ha messo il suo fiocco perdendo in casa con la Lazio, due gol peraltro dell'oggetto dei sogni di mercato di Mancini, e cioè Candreva. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Molto bene, tu ti diverti? Ma siamo, sì, cioè, mi diverto, siamo al pranzo dei giornalisti con la Lega. Non la Lega Nord, ma la Lega Calcio, c'è tutto, sì. tutto il gol, tutte le televisioni, tutti i giornali, Sky, Mediaset, Rai, Radio 24. La carta stampata, Radio 24, c'è Belinazzo. Belinazzo in questo momento è da una parte, a destra, a Caressa, e a sinistra Brandi, quindi in questo momento è tipo il compromesso storico, è un uomo, capisco, diciamo, è come Mattarella in questo momento, in certo lato, ovviamente salutiamo per il merito della Repubblica Italiana, ci mancherebbe altro, però Belinazzo ha il physique du role per, no? Sì, per tenere banco, per fare il suo, ascolta. Sì, lui ascolta spesso. Ascoltami, Andrea Sorrentino, che ieri è stato qua nostro ospite, andando a San Siro, dove l'Inter ha confezionato il più sgradito dei regali di Natale per i tifosi interisti. Perché questa sconfitta interna con la Lazio, francamente, non se l'aspettava nessuno. Oggi uno dei temi è: ma Mancini, alla fine siamo sicuri che può andare avanti in questo modo, cambiando tutto e tutti? Ieri ad esempio gli Aici in panchina, a me è suonato subito strano, però alla fine, Pier, il pacco di Natale comprende un campionato che dice Inter 36, Fiorentina 35 insieme al Napoli, Juventus 33 e volendo anche Roma 32, non è male. Sì, no, è un campionato bellissimo, il pacco di Natale è meraviglioso e su questo non ci sono grandi discussioni. Non so se da un lato uno potrebbe pensare, visto che la squadra che ha dominato gli ultimi quattro campionati li ha dominati ed è tornata adesso con 7 vittorie consecutive, diciamo che gli juventini ottimisti potrebbero pensare che sia stata una ricreazione durata per un girone, cioè che, diciamo, ci è stato regalato un mezzo campionato di riequilibrio. Dopo quattro anni andate avanti voi, che a noi viene, esatto, da ridere. Così arriviamo, lo famo strano. La sensazione è che in realtà invece possa ancora regalare molte possibilità e molte emozioni. Io continuo a pensare che il Napoli sia una squadra dal punto di vista della qualità molto competitiva. E penso però che... Ci siamo domandati tutti, Pierino, anche pubblicamente, ma può una squadra perdere lo scudetto con un giocatore che fa 16 gol in 17 partite, certo. Che domina che alla fine il campionato, altro, la scena in questo modo? Ha anche molto altro per Napoli, non c'è dubbio. Tanto, pesa tanto, ma c'è anche dell'altro. E poi sicuramente ci mettiamo dentro tutto il resto, ci mettiamo dentro il paradosso di una squadra come la Roma, che ha l'allenatore abbracciato dai giocatori e con i tifosi che fischiano, che i tifosi avrebbero già cacciato via praticamente senza pubblico, sì, che è almeno 4, comunque almeno 4, no? Sì, no, ma chiaro che lì il discorso è molto più complesso non è solo tecnico, sì, come sappiamo benissimo. Tra l'altro oggi Pallotta ha usato una immagine, leggevo prima, abbastanza forte: oggi non verrà versato il sangue di Garcia. No, mi dicono di no. Sì. Sabatini, non parlo, vabbè, cambia poco, insomma, arriva dall'entourage della Roma. Però questa è la posizione della Roma. Garcia che rimane in bilico, questo è uno dei temi, ci sono molte squadre sull'orlo di una crisi di nervi, alcune anche oltre, c'è Allegri che fa lo spogliarello dopo aver vinto, stravinto e a momenti pareggiato la partita a Carpi, dopo il Milan che dopo un primo tempo pessimo perdeva Frosinone e poi è riuscito a raddrizzarla. E poi c'è il Napoli che a Bergamo ha vinto direi d'imperio, e la Lazio che insomma, l'Inter secondo me ha un difetto che è questo: contro squadre di buon livello non riesce ad essere così incisiva come lo è con le squadre medio-piccole, che insomma non hai dubbi quando si gioca contro, non hai dubbi che porterà a casa il risultato. Ieri magari eccesso di fiducia, eccesso di convinzione, qualche errore di Mancini, diversi errori di Felipe Melo, ed ecco confezionato il pacco di qui sopra. Sì, guarda, io ti dico, l'Inter mi aveva dato una sensazione, non è che la rinnego, l'ho detto ieri, mi aveva dato una sensazione nell'ultimo mese e mezzo di essere cresciuta molto. Cioè, poi noi ogni, non è che abbiamo la palla di vetro, noi ogni settimana valutiamo quello che vediamo. Quello che abbiamo visto è stato un Inter che ha faticato tanto all'inizio, ha vinto tante partite di, così, di giustezza, no? Di poco margine, poi ha fatto delle cose invece importanti nell'ultimo mese e mezzo, su questo non credo ci sia discussione, ha cominciato a vincere bene, e poi ieri si è impantanata, nell'orgoglio di una Lazio che per me comunque come valori complessivi merita di più della posizione che ha in classifica. Per me la Lazio, io non mi nascondo, lo dico, è la squadra da Europa League come valore tecnico, certo, ed è anche la sua dimensione, tutto sommato è la sua dimensione, la sua ieri dimensione strutturale. Si è ritagliata una notte particolarmente positiva, sicuramente, insomma, non è che su questo non si discute, però insomma ci può stare, non è un'eresia tecnica, perché questa squadra secondo me ha delle qualità tecnicamente da, cioè secondo me è più simile a quella che abbiamo visto come classifica e come risultati e come gioco nelle prime partite rispetto a quella che abbiamo visto nelle ultime gare di caduta libera. Quindi sì, ieri era, io pensavo che l'Inter vincesse facilmente perché avevo visto la Lazio veramente allo sbando, e invece è successo qualcosa. Vedi, tante volte che la fiducia confermata all'allenatore, e Lotito non ha mai avuto dubbi da questo punto di vista, e lì sta l'importanza della società. La fiducia confermata all'allenatore che d'altra parte ha i giocatori con lui, dei risultati li porta, perché quella della Lazio non era era una crisi di risultati molto profonda, ma non era una situazione estrema e limite. Senti Pier, ci fermiamo per il traffico, ti leggo questo messaggio di Federico. Vai. Da Alessandria: Pardo, amico nostro, già che sei lì, fai un'attività di servizio pubblico per favore, di ai signori della Lega che sarebbe ora di avere gli orari delle partite del 2016. Sì, guarda, credo siano in arrivo, ci hanno promesso che sei il dessert. Davvero? Quindi, per il dessert arriva oggi con il dessert, posso dire, arrivano gli orari delle partite del 2016 di Alessandria, che da quello che mi hanno detto oggi verranno diramati. Poi sai che loro fanno diramati, è bello, bello diramati, bollettine, verranno diramate le gli orari anticipi e passivi dei principali match delle prime gare del 2016. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Dove è finito questo oggetto che hai calciato e soprattutto il cappotto che hai tirato? No, il cappotto è buono, la bottiglietta fortunatamente con il sinistro, di solito di sinistro non calciavo neanche, è andata sopra la panchina, quindi è andato tutto bene. Ragazzi hanno fatto bene fino a 5 minuti alla fine. A 5 minuti alla fine abbiamo fatto un po' di casino. E questo vediamo nel positivo. Ci serve da lezione per il 2016. Sembra appropriata, la colonna sonora. Cosa dici, Maurizio Crosetti? Dico che che mi ha fatto, visto che si parla di Juventus, mi ha fatto venire in mente una vecchia signora che però non è la Juve ma Kim Basinger, quindi tutto si tiene. Tu sei, come direbbe Platini, come diceva Platini, tu sei Pierre. Sì, diceva, perché oggi si è beccato i suoi 8 anni che sono una condanna all'ergastolo sportivo e si toglierà di mezzo. Notizia di oggi, è andata così. Però ieri ne parlavamo con Pardo, no? Una Juventus che insomma ha dominato in lungo e in largo la partita e non so per se per un calo di tensione, non so se per oggettiva stanchezza, non so se stavano già prenotando coi telefonini le vacanze di Natale, ha rischiato di complicarsi a gara, ma mi sembra un fatto piuttosto episodico, Pardo. Assolutamente, ieri è stato assolutamente questo, cioè una partita dove prima del 3-2, che è un autogol inventato da Bonucci, veramente inventato, su un pallone completamente innocuo, il Carpi non aveva praticamente mai avuto occasioni, per cui insomma leggere nella partita di ieri un calo della Juve o una difficoltà sarebbe fuorviante. Detto questo, poi se Lollo faceva il 3-3 rideva il Carpi e piangeva la Juve, sì, perché ci è mancato pochissimo, però ecco, lo considero più uno di quelle, di quei casi in cui il calcio si traveste veramente da qualcosa di diverso. D'Arlecchino, perché se diciamo Pulcinella, poi magari si offende qualcuno, diciamo D'Arlecchino. Arlecchino. Cosa stai mangiando lì alla pranzo della Lega? Qui sono arrivati il risotto e degli agnolotti. Tra l'altro il mio amico, fratello, collega Marco Foroni ha inventato un gioco che tra in pubblicità disegnava cartine di paesi con la forma del risotto e ho indovinato la Svizzera, l'Austria era un po' più paga. No, fra poco. Ma quanto arrivano i posticipi? No, posticipi fra un quarto? Gli ascoltatori Radio 24 sono lì pronti, Fede si sta vedi Fede che Pardo si sta informando, tra poco arrivano, vengono serviti tra il risotto e gli agnolotti, sono avanti quei lavori, Maurizio. Sì, no, io vorrei un po' più di rispetto nei confronti di chi oggi salta bellamente il pranzo. Bravo. E quindi bravo. E parlo a nome di tutti quelli che non stanno a magnà ma a lavorare, ecco. Esattamente come noi, Maurizio. Esatto, no, dicevamo della Juve, di questo simpatico spogliarello di Allegri, che peraltro non è un inedito assoluto, perché il nostro amico mio di Pardo, Gianmarco Pozzecco, ne inscenò uno molto più hard dopo un Varese-Milano stracciandosi letteralmente la camicia. Qui Allegri almeno la giacca gli ha retto, diciamo così, però possiamo considerare tutto episodico. 7 vittorie consecutive, certamente lo stress di una lunga rincorsa, perché rincorrere in questo modo ti costringe a camminare ogni giorno sul filo. La Juventus lo sta facendo nel migliore dei modi, mi pare. Sì, direi di sì, a parte qualche intermittenza, il filo dell'albero di Natale. Si cammina sul filo dell'albero di Natale, qualche volta le lucette che si accendono e si spengono in difesa, ma ormai sono praticamente sempre accese. Ecco, ieri pomeriggio Bonucci si è travestito un po' d'albero di Natale, si è spento, poi però si è riaccesa la Juve, 7 vittorie, il passo di chissà come si fa. Gli altri stanno al limite imparando come si fa, o qualche volta credono di averlo capito. La Juve lo sa, ce l'ha dentro quel come si fa, non è detto che lo faccia, ma sicuramente lo sa fare meglio degli altri, sì, e da più tempo, sì. E quindi lo diciamo da tempo anche noi, sembra che adesso uno cavalchi le 7 onde delle 7 vittorie, ma chi ci segue o ci legge sa che, almeno il sottoscritto lo dice da mesi, e non per piaggeria, non per ruffianeria, non me ne importa nulla della Juventus o dell'Inter o del Milan, però mi importa dire quello che penso, e penso da tempo che la Juve sia comunque la squadra più attrezzata, forse non la più bella, la più abituata a certe pressioni, in un campionato finalmente più aperto, che dà possibilità a molti di farci un pensierino, però vedrete che alla fine è come Miss Colombia, no? Che ieri hanno detto no, Miss Universo, Miss Colombia, poi si sono accorti che invece era Miss Filippine, mi sembra, no? Dopo aver detto che era Miss Colombia, ecco, adesso tutto questo intorcinatissimo esempio, perché io alla fine penso che la Miss Universo sarà la solita. Si pensa adesso che sia Miss Inter o Miss Napoli o Miss Fiorentina, vedrete che alla fine lo scudetto rimane a Torino. Senti, io mi sto divertendo molto a leggere messaggi tipo questo, che arriva da Firenze: siete fantasticamente schifosi, vergognosamente servi, capisco che avete famiglia, ma no, se avete un minimo di etica professionale nominate anche la seconda in classifica. Quante volte dobbiamo nominarla? Non va bene, troppi avverbi. Sono antigiornalistici tutti questi avverbi. Ci piacciono. poi ce n'era una. Quante volte dobbiamo dire Fiorentina per accontentare i tifosi della meravigliosa Fiorentina che ieri ha battuto di nuovo? Io dai, dimmi. No, è che stavo cercando, stavo tipo Ferrero quella sera a Tiki-Taka. Non mi aprite il microfono, chi è il tecnico? Ecco, aprite il microfono, perché stavo, innanzitutto avevo detto il Quadrato è colombiano. Da questo punto di vista c'era il parallelismo con Miss Colombia e Miss Filippine. Dico una cosa volante sulla Juve, che secondo me è la cosa più interessante e più preoccupante per le altre, è che queste 7 vittorie consecutive sono arrivate così. Cioè, se alla fine le energie consumate, la benzina consumata, è stata molta, ma non moltissima, secondo me. Insomma, gol all'ultimo minuto contro il Torino, ha vinto a Empoli così, in scioltezza, rimontando, ma in scioltezza. Sì, attenzione, perché potrebbe pagare il poco turnover in mezzo al campo, sì, dove no, sono sempre gli stessi. Sta facendo tutto questo quasi senza Morata, che alla fine come peso specifico di classe, a parte Dybala, è il più forte che hanno lì. Tra l'altro. La verità è che vale tutto. Ma se lo stanno perdendo per strada? No, sì. La strada è lunga. Sì. No, non lo perdi per strada. Allora, è lunga, sì o no? Certo. Maurizio dice non se lo stanno perdendo per strada. Pierluigi Pardo dice se lo stanno perdendo per strada. Io dico questo, che dipende come sempre da che tipo di telescopio prendiamo. Se il telescopio è il lungo periodo, non lo stanno perdendo, perché Morata è giovanissimo, è talentuoso, sì, e tornerà. Se il telescopio è questa stagione, è questo momento, è quello che un giocatore deve dare, sicuramente Morata in questo momento è fuori da tutto, e lo dimostra tutte le volte che entra, perché entra male, perché proprio non ha in questo momento la testa che ha, per esempio, Mandžukić, che ha Dybala, che hanno i giocatori in condizione legittimamente. Poi è ovvio che un giocatore che tornerà, magari torna fra un mese, magari il talento non si discute, è anche più forte di Mandžukić, secondo me, da un punto di vista di qualità tecnica. Oppure magari tornerà con un'altra maglia, poi bisogna vedere anche in questi momenti il carattere che ha Fiorentina. Fiorentina che? No, qua hai detto sì, adesso parliamo della Fiorentina. Che parliamo a Fiorentina 800 24 00 24, tutti i fiorentini del mondo possono chiamare. Vale tutto, Carlo. Ma vale certo, tutto, ma è bello così. Roma che ha l'allenatore in discussione, Totti che non c'era 3 mesi, Dzeko che doveva essere la grande novità dell'anno, che praticamente non si è mai visto, e anzi qualche volta si vede in negativo come ieri, sì, se la Roma espulso. È a meno 4. Allora perché la Roma non deve crederci? Perché non deve crederci giustamente il nostro ascoltatore Viola? La Fiorentina sta facendo cose eccezionali, a meno 1 dopo 17 partite avrà il diritto di essere considerata fra le protagoniste, sicuramente, sono tutte. Ma arriva a dirti anche il Milan, cioè no, Milan no, non, ma non non per lo scudetto, fumo, non per lo scudetto, però il vero paradosso è che anche il Milan alla fine, cioè, è a meno 4 dalla Roma, sì, è a meno 5 dalla Juve, cioè, questo è un è un effetto ottico, secondo me. Un'ultima cosa, Maurizio Crosetti, trovo profondamente ingiusto invece questo messaggio che mi manda, a proposito, non ho neanche detto il numero per messaggi WhatsApp, 349 238 6666. Trovo profondamente ingiusto questo messaggio. Mai una formazione giusta dal primo minuto. Male Mancini, male. Vista la classifica, l'eclettismo dell'Inter non è un saper scegliere, ma è il poter scegliere soluzioni, uomini diversi. No, male no, è che non si può sempre leggere tutto alla luce dei risultati. Allegri sembrava un mentecatto fino a 3 mesi fa, adesso nei sondaggi è più grande. Ieri ci ha scritto uno che ha detto Allegri è un somaro. Ha chiamato uno dicendo Allegri è un somaro, sì. È un somaro. Sì. Vale tutto, ma soprattutto valgono loro. Mancini e Allegri valgono molto, come valgono nella media molti dei nostri allenatori. E il problema è che in campo non c'è il problema. Non è un problema, in campo non vanno loro. Secondo me c'è uno squilibrio di giudizio sempre o spesso nel valutare il lavoro degli allenatori, quello che possono mettere a disposizione i dirigenti, la resa dei giocatori, la loro forma. È un'alchimia complessa quel mestiere. Certamente Mancini sta facendo un grande campionato, no? Certo, non rischia di perdersi un po' davanti allo specchio, perché ieri onestamente gli Aici in panchina l'hanno capito in pochi. Non rischia di perdersi davanti allo specchio di una squadra che comunque tiene in mano e così e manovra come un teatro. Sì, sì, il rischio c'è. Poi io sono, come dire, un prodotto di un calcio di una volta, anche se poi cerco di vivere il presente, e quando il calcio una volta aveva fondamentalmente i titolari e aveva le riserve. So benissimo che non è più così, numerosi, calendari, vale tutto. Però secondo me alla fine valgono di più le squadre con una rosa, con una formazione più titolare che non intercambiabile. Le risorse degli intercambiabili ci sono, ma è più facile anche effettivamente sbagliare. Credo che quando hai poi non hai l'Inter, non ha le coppe, quindi paradossalmente la squadra che potrebbe avere più vantaggio dalla formazione titolare è quella che avevano bisogno di cambiare questa formazione perché non fa le coppe. È una squadra come la Juve, la formazione titolare l'ha trovata, per dire, dopo un po' di fatica, e tant'è che Morata adesso è una riserva, come diceva Pierluigi. Cioè i campionati secondo me alla fine li vincono i giocatori, gli allenatori con le squadre titolari. Con pochi cambi, ma l'Inter potrebbe essere un'eccezione. Io sono d'accordo. Potrebbe essere qualcosa di nuovo e di diverso. Maurizio, grazie, ti abbraccio forte. Grazie a voi, ciao. Auguri a tutti. Ciao. Ciao Cross. Volevi dire Pierluigi, poi andiamo in borsa? Non mi ricordo, no, che forse che Mancini ogni settimana riesce a stupire. Quindi poi, sai, 10 volte su 12 stupisce e uno dice ammazza che bravo qua. Appunto. Mossa che ha indovinato, Riccardo in panchina, grande idea, ha vinto un ieri non capiamo gli AIC, certamente non lo capiamo, però insomma ieri l'eccezione conferma la regola. Il dato politico, il dato complessivo è che l'Inter comunque non sta tenuta in testa alla classifica con una squadra praticamente rifatta, rifondata, e Mancini merita un premio. E secondo me il dato strapolitico è che Allegri sta facendo una cosa pazzesca, una rimonta pazzesca, con delle scelte assolutamente impopolari, completamente in disaccordo con la maggioranza del popolo bianconero, dell'opinione pubblica e della stampa, e che Sarri in questi primi sei mesi, e ovviamente è stato hanno dimostrato di essere allenatori top da grandissime squadre italiane. Sicuro. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Molti messaggi, compreso chi mi dice ma ce l'hai su con il Milan, una signora me lo scrive. Ma perché? Ma io non ce l'ho con il Milan per nulla, anzi se volete poi ne parliamo. 800 24 00 24, il numero verde, vi aspetto subito. Perché è andata in disordine? Un pochino. Anche il cappotto. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Sei un'azienda, cerchi agenti di commercio e venditori. Vai su agenti.it e le trovi a tutti i luoghi. Oh, azienda, vai su agenti.it. E gli agenti di commercio che tu cerchi trovi lì. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Oggi comincio a fare i regali e volevo chiederti cosa potrei regalare. Pensavo di fare un albero diverso da tutti gli altri. Un albero di Natale fatto di cuscini, oppure fatto di tutti i biglietti di auguri dei Natali passati, Beh, è carino, ma sai, io ti chiedevo... E magari potrebbe avere le foglie di stoffa, o di porporina, e le radici di liquirizia, e i rami... Quest'anno, pensa solo all'albero, i regali te li facciamo noi. Scopri Enel Premia 3.0, il nuovo programma fedeltà di Enel Energia, e partecipa al concorso Per fare un albero ci vuole ingegno. Mandaci entro il 31 dicembre la foto del tuo albero di Natale sostenibile. Per te subito 700 punti energia e in palio tanti premi finali. Consulta i regolamenti su enelenergia.it. Enel Energia per il mercato libero. Tutti convocati. Dunque torniamo, Gianluca provincia di Lucca, Massimo provincia di Brescia, ascoltatori 800 24 00 24, il numero verde. Gianluca, buongiorno. Buongiorno, mi avete bruciato l'intervento e io volevo semplicemente dire che girovagando per i social interisti questa mattina l'unico colpevole era Mancini, secondo la stragrande maggioranza dei tifosi interisti, perché va bene cambiare formazione una, due, tre volte, ma quello che gli viene imputato una, che due, tre, pure sarebbe... 17 pure 17, però è prima in classifica, sì, però sarebbe giunto il momento secondo molti di puntare su un 11 titolare e fare andare quelli e eventualmente all'occorrenza fare dei cambi, ma no, stravolgere ogni volta la formazione. Vi ringrazio, Gianluca, ascolto la risposta per radio. Ma guarda, c'è poco da rispondere, l'Inter un 11 titolare non ce l'ha e Mancini non vuole nemmeno che ce l'abbia. Ha alcuni punti fermi che sono ovviamente Handanovic, la coppia dei centrali che è la più forte del campionato e dei centrali difensivi, a Medel e Felipe Melo che ieri ha giocato una partita da vietare ai minori, come sappiamo, con un sacco di errori, l'espulsione, su cui penso che non ci siano discussioni né sull'uno né sull'altra. Gli altri sono davvero intercambiabili. Sorprende il fatto che, insomma, in un momento come questo, gli Aic, che era il valore aggiunto dell'Inter, ieri sia stato tenuto in panchina, ma poi non penso neanche fosse una questione di turnover o di stanchezza, visto che adesso c'è la sosta di Natale. È anche vero che l'Inter sta ritrovando i gol di Icardi. Non vorrei, ripeto, che Mancini si perdesse davanti allo specchio. Quanto è bella la mia squadra così rivoluzionaria, che è fatta di tanti giocatori, nessuno dei quali fondamentale, di tanti moduli, nessuno dei quali definitivo. E ieri probabilmente ha avuto una lezione di questo tipo, però mi sembra un po' tanto dire che Mancini sia l'ultimo fesso del branco quando è primo in classifica, e sfido tutti gli interisti a telefonarmi a dirmi io ci credevo all'inizio del campionato. Massimo, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Io volevo intervenire sulla Juve. Credo che Allegri abbia fatto un lavoro eccezionale e questo gli va riconosciuto, perché ha avuto anche tante critiche. Credo che sul centrocampo magari stanno giocando sempre gli stessi, però è anche vero che alcuni non sono stati completamente ancora utilizzati, non hanno espresso il meglio. Penso a Lemina, che mi era piaciuto molto all'inizio stagione, molto acerbo, eh? A me era piaciuto, sì, ma molto acerbo. Secondo me ci si può lavorare, però secondo me in quel centrocampo, cioè, bisogna capire esattamente quali sono le condizioni e le prospettive di Khedira, che è un giocatore di cui la Juve ha praticamente sempre fatto a meno, e quando ha giocato è stato uno dei giocatori fondamentali. Ha giocato all'inizio senza Marchisio, che è un altro dei giocatori fondamentali. Io credo che Sturaro sia determinante nel dare equilibrio a quel reparto. Lemina sinceramente mi sembra acerbo, ma Hernanes credo si sia perso nella foresta e non so se lo ritroveremo. Si dovesse intervenire sul mercato, io punterei proprio al centrocampo. Dica. E poi volevo augurare, io ho avuto un idolo in gioventù che è stato Platini, e volevo augurargli nel ricorso al TAS di dimostrare, sarebbe per me sarebbe veramente molto grave, una grande delusione, di dimostrare di non aver nulla a che fare con quello che ti contesta. Tutto qui, la ringrazio, sì, e ti auguro una buona giornata. Guarda, io mi auguro che la verità emerga, che se è colpevole, se lo reputano colpevole, poi è un gioco molto, molto complicato, molto politico, molto economico, molto di corridoio politico anche, se vogliamo. Quindi in questo momento c'è una squalifica di 8 anni per lui e per Blatter. Blatter anni 79, la sua carriera l'ha fatta e l'ha conclusa. Probabilmente voleva portare all'elezione un suo delfino, poi ha anche molti altri guai, come abbiamo sentito la scorsa settimana, per indagini a suo carico, e non sono le uniche da parte dell'FBI, che sta operando in maniera molto decisa. Quanto a Platini, io credo che la carriera politica di Michel Platini con questa squalifica sia conclusa. Allora, voglio farvi sentire una cosa, poi abbiamo un ospite ed altri ascoltatori. 800240024 è il numero verde. È stato un gesto spontaneo, che al di là del mio gol, chiunque avesse fatto gol, anche se l'avesse fatto Wojciech, tutti saremmo andati insomma verso la panchina, verso il mister, verso gli altri giocatori che soffrono insieme a noi e che si allenano tutti i giorni e danno veramente il 110%. Quest'oggi penso si è visto il gruppo che siamo e abbiamo dato veramente una grandissima risposta. Abbracciami C'è poco da capire, solo abbracciami. Ma è un gesto sì che ci emoziona ovviamente. La cosa importante per me è che i ragazzi hanno fatto di tutto in campo per vincere questa sera, hanno dimostrato personalità. Le cose belle, quelle che ti piacciono, se non le aspetti poi. Tutti volevamo condividere tutto, diciamo, le cose brutte che ci hanno tirato, che ci hanno tirato questo mese. E le abbiamo condivise veramente in 25, più gli allenatori, più i dirigenti, più i fisioterapisti, più tutta la squadra, tutta la Roma. E quindi in questo abbraccio è riunita tutta la Roma e sono riuniti tutti i tifosi. Lorenzi si giustifica per l'abbraccio a Garcia, due punti aperte virgolette, mi scuso ma l'avevo scambiato per mia nonna, scrive Gene Gnocchi sul rompipallone di oggi. Carmine Fotia, ex direttore del Romanista, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Non credo stia tutti Roma in quell'abbraccio. Roma è l'unico posto nel mondo dove la squadra si deve giustificare perché ha risultato al gol della vittoria sotto una pioggia di fischi. Sotto una pioggia di fischi, Come? Sotto una pioggia di fischi, dicevo. Sì, appunto, dico, è l'unico posto al mondo dove bisogna giustificarsi, perché c'è una parte del tiro che è composto da pazzoidi, schizzoidi, non lo so, insomma, persone credo... che veramente col tipo e col calcio non c'è niente a che vedere. Sì, credo, direttore, che la vicenda sia molto più complessa e i contorni... Ma no, non è, guardate... Insomma... Voi fate dei film su Roma, guarda, la cosa è semplice. Ma non lo so se ci facciamo dei film, però anche ma ieri 4.500 paganti... Ci sono dei gruppi che non si riescono a tenere sotto controllo, che sono composti da chi per interesse, chi per stupidità, chi per non so quale altra ragione... Ma questa è la verità, non è che c'è tanto da... Non è che c'è un complotto, voglio dire. No, nessuno sta parlando di complotto, semplicemente la situazione è complicata perché c'è una larga frangia della tifoseria. Appunto, è facile, quindi non è complicato, è facile. Sì. È una frangia che fa sempre contesta qualsiasi cosa si faccia. Se fai lo stadio ti contestano perché lo fai, se non lo fai ti contestano perché non lo fai. Se no ti contestano perché magari non li fai partecipare al gioco... Alcuni? Pierluigi, dimmi. Sì, no, io credo che è vero che ci sono, diciamo, i contestatori di professione, su questo non c'è dubbio. Sicuramente alcune uscite del presidente Pallotta, secondo me, giuste nella sostanza, magari un po' spericolate della forma e poco chiare in certi punti della forma, possono aver creato un po' di scollatura. Non c'è alcun dubbio che quegli striscioni lì in occasione di Roma-Napoli fossero striscioni che sono sbagliati da mille punti di vista e anche perché hanno finito per danneggiare la squadra. Questo non c'è assolutamente discussione. Sull'allenatore credo che ci possa essere una dialettica. Ah beh, certo. La dialettica certo. È che magari oggi ci sono dei tifosi della Roma, io non so se hanno ragione o no, che pensano che un certo tipo di percorso di crescita con questo allenatore sia molto molto legittimo, difficile. No, figurati. E quindi secondo me ma non c'è nessuna ragione per fischiare la squadra che va a abbracciare l'allenatore dopo che ha segnato. Questo è il comportamento che io non capisco. Allora facciamo così, direttore, subito dopo il traffico prova a darci una spiegazione di questo, perché non lo capisco neppure io, ma non lo capisce nessuno. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, eravamo rimasti in sospeso con una spiegazione del direttore Carmine Fotia su quei fischi da parte dei quattro gatti presenti all'Olimpico nel momento in cui la Roma vince e va ad abbracciare il suo allenatore. Poi sentiamo anche Pierluigi Pardo e sentiamo gli ascoltatori. Direttore. Ecco, magari partiamo proprio dai quattro gatti, che forse quella è la cosa, no? Sì? Importante. Cioè, ragione, allora, la ragione di questo. L'altro giorno, adesso io scrivo per l'Unità, l'altro giorno ho scritto un commento che sarebbe una tesi forse un po' ardita, ma neanche tanto, che le sorti della città e le sorti della squadra sono legate strettamente, ieri nell'ascesa, oggi nel declino, perché ecco, su questo vorrei anche essere chiaro, non è che io sto difendendo una gestione che evidentemente fino ad oggi è fallimentare, no? Purtroppo devo dire, io sono stato tra coloro che ha sostenuto con forza la Roma americana, così come mi è capitato di essere tra coloro che sostenevano con forza il sindaco Marino, perché erano comunque degli elementi di rottura con le cattive abitudini di questa città. Però quando tu vuoi rompere le cattive abitudini devi sapere che vai incontro a guai, e quindi ti devi attrezzare, devi avere quella che in politica si chiama una politica delle alleanze, sì, devi costruire il consenso, devi avere una strategia, non puoi andare, spesso sembra non andare veramente così random, no? Allora devi sapere che esiste tra i problemi a Roma anche quello, che c'è un gruppo organizzato di tifoserie che pur di non perdere il potere di condizionamento che hanno sulla squadra, sono in contestazione permanente. Certo, e allora sai che succede? Sai che ti dico? Io sto con Pallotta, che prima o poi si romperà le palle e venderà la squadra facendo contenti i loro signori. Però da questo punto di vista io sto con Pallotta e nessuno mi leva questa idea. Io non lo voglio il consenso. Che lui prenda questo. Guarda, io se devo dirtela la tutta non avrei cacciato neanche lui Seriche, pensate come sono fatto io. Posso dirvi una cosa? Certo. Allora, ieri allo stadio non è che non c'erano 62.000 persone, mancava la curva sud. Cioè questo tipo di clima è un tipo di clima che riguarda non soltanto alcune frange, sta vero, io ti fido più a Roma. È un mood della città. È un mood della città, però se voglio dire, è un difetto che abbiamo a Roma, noi siamo... Questo è il difetto principale di Roma e dei romani. Allora, cioè, è deprimerci e esaltarci nell'arco di mezza giornata. Su questo non ci sono dubbi. Detto questo, questo pesa sulla, guardate che questo sulla squadra pesa. Sì. Cioè, voi credete che sulle sorti, sul fatto che l'Inter quest'anno vada a mille, non conti anche il fatto che la città con l'Expo è una città che è stata al centro del mondo? Possiamo parlare anche del Milan, il Milan che non sta facendo lo stesso percorso. Non è che va malissimo, comunque una delle tue squadre se ne avvantaggia. Credo che qualsiasi imprenditore debba rendersi conto che esiste un consumatore, uso questa parola che chiaramente non piace ai tifosi, no? Quindi qui il problema non riguarda soltanto pochi ultra della curva sud, che i fan possono anche essere d'accordo, prendo per buona la tesi di Carmine, per carità, però credo che qui ci sia un problema di disaffezione complessiva e di critica complessiva a un certo tipo di... Poi io sono dell'idea che Pallotta sia assolutamente un elemento positivo, cioè la Roma prima di Pallotta viveva un periodo di resistenza con la famiglia di Rosella, in cui doveva vendere i pezzi migliori all'Inter, alla diretta interessata, per riuscire a sopravvivere. Questo non ci sono discussioni. È arrivata una nuova dirigenza che ha progetti importanti che sono assolutamente, assolutamente positivi e che possono fare il futuro della Roma. Su questo non ci sono dubbi. Però che non ci si renda conto che si debba trovare una soluzione nel rapporto con i tifosi, e ripeto, non mi riferisco soltanto alla curva, ma perché non è che tu hai la Monte Mario piena, la Tevere piena. No, e ma io sono d'accordo, infatti io non ho citato affatto la curva. Questo, se uno vuole fare calcio a Roma, deve rendersi conto che giusto o sbagliato, ma il tifoso è quello. Sono d'accordo. E quindi d'accordo, bisogna cercare uno sforzo reciproco per venirsi incontro, no? Ma sì, sono d'accordo. Il problema è quali sono i termini di questo accordo reciproco, Pier? Quali sono? Scusa, io posso dire? Sì, certo. Allora, io sono d'accordo, infatti non ho citato la curva, non ho parlato affatto di curva, alla mia bocca non è uscita la parola curva, ho parlato di frange, che è una cosa un po' diversa, perché possono essere anche frange non organizzate. Io ho detto semplicemente questo, che di fronte a una città complessa come Roma, e che ha comunque molto più di altre città, anche se ripeto, io penso che uno stato di benessere, di euforia, di dinamismo di una città alla fine si vede anche sulla squadra, si riflette anche sulla squadra, perché vivi quell'aria, respiri quell'aria, respiri quel clima, senti quelle parole, insomma, e questo carica molto psicologicamente. Sì. A Roma è esattamente il contrario, Roma è una città in declino da molti anni. Va bene, ma... purtroppo sono stati commessi errori d'accordo, enormi, direttore, proprio nel sottovalutare. Questa può essere una spiegazione sociologica che può essere, può essere condivisibile, ma in termini molto, molto concreti, pratici, banali e schietti, cosa vogliono questi? Cioè, cosa vogliono queste frange? Vogliono cacciare Garcia? Vogliono altri giocatori? Vogliono che Pallotti se ne vada via? No, perché sennò finiamo per non capirlo mai. Distinguere tra le frange organizzate. Alcune di queste frange, alcune radio che vogliono cacciare Garcia, Pallotta, okay, e tutti quanti. Ma la grande maggioranza, secondo me, è semplicemente delusa, depressa, fischia e si incazza. Non vuole niente, non so cosa vuole. La stagione della Roma ad oggi è una stagione positiva o negativa? Perché se è una stagione positiva... è una stagione a metà ancora. No, secondo me ad oggi è una stagione negativa, perché rispetto è negativa a quello... perché sei ripartito che vincevi lo scudetto e vincevi la Champions. Siamo quarti in classifica, siamo in Champions. Sei quinto in classifica. La squadra non dà segnali di crescita, al di là della vittoria di ieri. Ma questo che lo vediamo alla fine, ma questo lo vediamo alla fine. Vabbè, ho capito, però allora quello che ti sta chiedendo è un altro impede. Ma che fa alimentare, allora appunto chi sta sotto il quinto posto che deve fare? Si suicida? Ho capito, ma la Roma non è particolare, insomma, è giusto o sbagliato che sia. Io sono fra quelli che è andato a confutare la tesi di Crociani che la Roma fosse la grande favorita. Per me la Roma è tecnicamente una delle migliori squadre d'Italia, ma non è che deve vincere lo scudetto per forza, come pensano alcuni. Questo, la Roma è partita con i favori del pronostico, è partita dopo due secondi posti, compranno un grande attaccante come Dzeko, con Salah, con tutta una serie di soluzioni che dovevano portarla a competere a un certo tipo di livello, anche da un certo tipo di qualità del gioco, che secondo me sta solo a sprazzi. È uscita dalla Coppa Italia, che poteva essere comunque uno scenario interessante, è l'umiliazione ha passato il turno in Champions, ma giocando in una maniera che, insomma, non lo so, se vogliamo rivendicare il passaggio del turno in Champions come una medaglia, francamente mi sembra di no. No, non è stato positivo. Sono 20 milioni che prendi, metti in tasca e guardi avanti. Magari si sbagliano, perché ma io Roma che questa cosa è che a me l'allenatore è sempre la cosa che non risolve mai un cavolo. Beh, insomma, qualche volta no, qualche volta risolve. Qualche volta risolve. Carmine, sicuramente abbiamo Luis Enrique e Ranieri, che sono stati due allenatori cacciati da Roma con ignominia e che adesso sono in testa alla Premier League, alla Liga, e stanno facendo benissimo. Quindi io sono d'accordo con l'analisi, diciamo, sociologica. Credo però che ieri, in questa scena surreale, paradossale e anche un po' malinconica, perché il tifoso del Ponente del Gol dovrebbe soltanto godere come un riccio in calore, certo, invece che certo, stare a pensare, certo. Però dietro a quella scena lì c'è il fatto che evidentemente molti si vogliono cambiare, sono convinti che se si rimane con questo tipo di soluzione tecnica rimarrà una stagione a metà. Io non so se è giusto o sbagliato, però è un punto di vista. Ma questa legittimo. Io credo che sia il verso sbagliato di prendere questa vicenda, proprio perché l'abbiamo già provato, l'abbiamo visto, abbiamo cacciato allenatori a furor di popolo, so pippe, so scarsi, poi sono andati da altre parti e sono diventati fenomeni, e lo stesso anche alcuni giocatori. Io credo che voi sottovalutiate la psicologia nella storia del mondo, conta moltissimo, conta in politica, conta nel calcio, soprattutto nel calcio, e conta moltissimo a Roma. Io credo che se non si cambia, diciamo allora la mentalità, finché la mentalità di questa città non cambia, noi non andiamo da nessuna parte. Questa è una considerazione amara che io, direttore, cambio di mentalità. Quando abbiamo vinto? Sì. Quando c'erano leadership, quando c'erano dei grandi condottieri, certo, ma il cambio di mentalità è una delle cose che evochiamo in ogni settore, ma il cambio di mentalità è una delle cose più difficili in natura. Ma è fondamentale in tutta l'Italia. Ma in tutta l'Italia. A pallotta, ma quando si trattava di comprare la Roma, ma c'è stato un imprenditore romano che ha detto lo faccio io? C'è stato? No, a me non risulta. Pallotta, allora che cosa voglio? Ad oggi non sono imprenditori. Roma non c'ha una classe dirigente. Se avesse una classe dirigente, una classe di imprenditori, sarebbero andati loro a prendere la Roma. Ho capito. E allora, secondo me vale, cioè non abbiamo alcun tipo di via d'uscita. Se il discorso è globale ed è di questo tipo, non esiste alcun tipo di via d'uscita. Carmine Fotiva, io ti ringrazio tanto, è stato un piacere. Adesso devo fermarmi per il GR. Grazie. Vincenzo, provincia di Salerno, al volo, prima di salutare anche Pardo. Sì. Vincenzo, buongiorno. Sì, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sarò brevissimo. Riferimento a Mancini, io penso che un allenatore che cambia formazione 17 volte dopo che ha comprato lui tutti i giocatori, dove quell'autentico agricoltore del campo di calcio, che è Felipe Melo, perché per me è un autentico agricoltore, l'ha voluto lui, e non è la prima volta che Felipe Melo fa di quelle situazioni in campo. Perciò l'Inter, quando gioca con Felipe Melo, gioca con un uomo in meno, perché è un autentico agricoltore. Con tutto rispetto, con tutto rispetto per gli agricoltori, ma anche per Felipe Melo, che insomma all'inizio della stagione, almeno per una decina di partite abbondanti, era stato stabilmente tra i più tra i migliori dell'Inter, comunque quello che aveva in mano una certa leadership. Adesso ieri ha fatto una partita a coprirsi gli occhi, ha fatto un paio di fesserie e adesso è diventato, vabbè, agricoltore, con tutto rispetto per gli agricoltori. Ciao Pier, io ti saluto. Viva l'agricoltura. Viva l'agricoltura. Ciao Pierluigi Pardo, torniamo subito dopo il GR. Tutti convocati. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Oggi viene con un gol di Higuaín. El ritmo del pipita se siente sempre más. Giocamo mamacita, come on and shake your ass. Palla che gira, prima palla di Nazione. Il gol del Napoli arriva con Gonzalo Higuaín, che alla fine trova il modo di battere Bassi. 2-1 Napoli. Higuaín, Higuaín non sbaglia, un'altra doppietta per il Pipita. 3-1 Napoli. Mi ha raggiunto mio amico Giuseppe Cruciani. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi, ciao Carlo. La domanda è: come fai a perdere il campionato con un giocatore così? Impossibile. Beh, no, invece si può, perché ci sono precedenti. Io non me lo auguro, ovviamente, non lo auguro ai tifosi del Napoli, però ci sono precedenti di grandi campioni che non hanno vinto o che comunque non hanno portato la loro squadra allo scudetto. Il problema è molto semplice: mentre altre squadre non sono dipendenti da un giocatore, perché è così, né la Juventus né l'Inter, soprattutto l'Inter, che anzi forse li cambia troppo, né la Roma né la Fiorentina. Sì, certo, per la Fiorentina Kalinic è importante, ovviamente, però nessuno è indispensabile. Sì. Per il Napoli Higuaín è indispensabile. Questo ovviamente è un vantaggio finché Higuaín c'è, però ecco, accendete Ceri, questo vale a più per non tutti posso. I grandi giocatori, anche Pirlo in tutte le squadre in cui sì, ha giocato, era anche determinante. Sì, d'accordo, però senza Messi il Barcellona ha continuato a vincere lo stesso. E ti credo con Neymar e Suarez. Ho capito, però è un fatto, no? Il Napoli senza Higuaín in questo momento avrebbe grandi problemi, per cui cari amici napoletani, cominciate ad accendere, stringetevi forte Ceri, che non succeda nulla, che non succeda nulla a Higuaín, perché effettivamente insomma è uno che in questo momento assicura almeno uno o due gol a partita. Però parliamo anche dell'Inter, naturalmente, che è uno dei temi caldi del giorno, perché oggi improvvisamente Mancini è diventato un somaro. Sì, ma che lui sia uno come dire, che ci mette del suo qualche volta, non c'è dubbio, perché oggettivamente ieri cambiare alcuni giocatori, presentarsi in campo con una formazione diversa da quella che, no? Da quella però noi non possiamo sapere qual è la condizione dei giocatori, non possiamo sapere come sono allenati in settimana, eccetera eccetera. Qui, sì, c'è il pericolo specchio, si sì, guarda e dice sono bravissimo. Sì, è successo anche il contrario, però, cioè che cambiando ha vinto lo stesso. Chiaro. Per cui come la mettiamo? Cioè, poi diciamo la verità, io come sai tifo per la squadra che ieri ha vinto a San Siro, però la vittoria della Lazio, che è importantissima, è avvenuta per puro caso. Sì, per puro caso, dai, diciamo la verità. Ma ci sta il caso, cioè il caso che tante volte è stato avverso alla Lazio, quest'anno ha favorito, questa volta la Lazio, non c'è dubbio, perché comunque se Felipe Melo non fa la follia di saltare addosso a chi era, non mi ricordo, a Milinkovic, credo, a due minuti dalla fine, la partita era 1-1, arrivederci, grazie, andiamo a casa, 1-1, e per l'Inter comunque sarebbe stato un risultato importante, perché arrivava con due punti di vantaggio, senza il peso della sconfitta, eccetera, eccetera. Tant'è che Mancini stesso l'ha detto, no? In alcuni casi bisogna sapere anche pareggiare certe partite. Ma è chiaro. Sisto, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Di che vuole parlare? Volevo intervenire in merito alla Roma, sì, qualche minuto fa, portare due contributi. Mi riallaccio al fatto sociologico che è stato citato da uno degli ospiti, ribadendo un concetto, perché se noi intendiamo che la Roma la intendiamo con il concetto di madre, è un conto, se ne intendiamo il concetto di figlia è un altro. Mi spiego meglio: se la vediamo come madre, allora anche i 20 milioni che ci possono essere dati dal passaggio al turno successivo di Coppa è un grosso vantaggio, e questo è quello che secondo me vede Pallotta. Se invece la intendiamo con il concetto di figlia, allora ci dobbiamo rifare al grande Dino Viola, che vedeva la Roma come una figlia, cioè come un qualcosa che doveva essere in qualche modo protetto e in qualche modo sempre portato avanti a qualsiasi costo. E questo mi pare che può essere facilmente interpretabile. Ma poi io, concerne, cioè io non ho capito niente di questo. No, io non, anch'io faccio un po' fatica a capire questo, cioè secondo, questo concetto, secondo madre figlia. Come si chiama? Sisto. Secondo Sisto è meglio avere un presidente come Viola piuttosto che un presidente come Pallotta, questa è la sostanza? No, la sostanza è che sono due interpretazioni diverse della stessa cosa. Pallotta non la intende come una madre, quindi è un qualcosa che gli consente di avere un introito. Cioè lui è un uomo d'affari, quindi sì, la ma, vedi in questo senso. Bisogna anche capire che all'epoca di Viola tutti se ne fottevano di prendere dei soldi, di guadagnare dei soldi dal calcio. Era un altro tipo di pallone, non c'era il merchandising, non c'era gli incassi, sì, contavano certo, ma non troppo, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, era un calcio primitivo da questo punto di vista, per cui non c'era prospettiva di guadagno sul calcio. No, no, cioè, e non è neanche peccaminoso fare guadagnare sul calcio e magari io provare trovo, anche a vincere. Adesso poi lasciamo proseguire, esisto. Io trovo incomprensibile alcune cose che avvengono, cioè i fischi ieri mentre i giocatori abbracciavano Garcia, per me sono una follia inaudita, cioè fa parte del contesto in cui vive oggi la Roma. Ma sì, un contesto di in cui alcune cose non le capiamo, perché secondo me sono frutto di non della logica, perché la logica dice che è una squadra che ha 4 punti, se non sbaglio, a 4 punti dall'Inter, sì. 4 punti dall'Inter, sì. Qualificata agli ottavi, dove certamente, quasi certamente verrà eliminata, però comunque sono soldi, ottavi di finale della Champions League. Non è che fare gli ottavi di finale della Champions League per la Roma sia una cosa che normale, succede tutte le stagioni, no? Per cui francamente alcune cose le trovo folli. Che poi si possa immaginare un futuro senza Garcia è assolutamente normale, che i tifosi possano fare pressioni su questo francamente lo trovo inaudito, cioè lo trovo ridicolo. I tifosi o una frangia dei tifosi, prima ne parlavamo con Carmine Fotia, insomma il discorso è: veniamo ai patti Pallotta oppure no? Trattiamo oppure no? Se Pallotta dice di no, ha tutta la mia solidarietà, ha tutto il mio sostegno. Ma trattiamo su questo. Cosa poi? Su beh, però sai benissimo, su cosa? Trattiamo sulla gestione delle curve, sulla gestione dello stadio, trattiamo sull'affare del nuovo stadio in cui magari i tifosi vogliono, o una frangia dei tifosi o quelli che lavorano in quell'ambito. Non bisogna trattare niente, appunto. Cioè, non ci sono entità con cui trattare, appunto. Cioè, le uniche cose con cui trattare sono il Comune di Roma, per fortuna, le forze di polizia, le istituzioni, basta. Poi ci sono poi ci sono le singole persone che vanno allo stadio, le singole persone, non le associazioni, questo i in un club mondo, questo cioè, in un mondo ideale, ma no, nell'unico mondo possibile, immaginabile oggi, altrimenti sono solo pasticci. Domenico Palermo, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione, okay. Grazie per l'ospitalità. Io volevo ritornare sull'Inter, perché sì. Ieri ho visto la partita ed è paradigmatico il fatto che non appena l'Inter abbassa la tensione emotiva, chiaramente la squadra perde completamente forza. Ieri si è visto che sono arrivati praticamente con la testa già alle vacanze, non è una squadra che è ancora abituata a vincere, quindi probabilmente credo che l'aspetto emotivo abbia giocato un ruolo importante al di là della formazione. Io non credo che se avesse giocato Messi ieri avrebbe fatto meglio di quelli che c'erano in campo. Messi perché magari sì, Messi magari sì. Ho voluto esagerare, ecco. Messi no, magari sì, Suarez pure. No, ma io ho capito, è strano, perché l'Inter invece in questa stagione si ha trasmesso una sensazione, è stata quella di solidità. Guarda che c'è il tuo amico Evaristo Beccalossi. Dov'è Evaristo? È al telefono e lo puoi, Giuseppe, scherzare adesso ma fino no, a quando ma vuoi. Figurati. Ciao ragazzi. Ma no, non se l'aspettava naturalmente, ma nemmeno io mi aspettavo una passeggiata dell'Inter, evidente. No, ma io non credo nemmeno a questa cosa del Natale, se i giocatori con la testa, le feste, tutte stronzate, non c'entra assolutamente nulla. Figuriamoci se i giocatori, cioè l'Inter ieri aveva la possibilità seria di andare credo a più 4 se non sbaglio, sì. No? Figuriamoci se secondo me se hanno pensato alle feste oppure a una partita facile sarebbero folli. La partita di ieri ha evidenziato qualche limite dell'Inter che altre volte non è venuto venuto fuori, ma ti ripeto, c'è anche la casualità, perché poi se Felipe Melo non salta addosso su una palla assolutamente innocua al giocatore della Lazio, siamo qui a parlare di un Inter che certo pareggia, però ha più due, tutti felici e contenti. Beck, tu cosa dici? È diventato bravissimo Giuseppe. Ma è bravissimo. Cioè, è bravissimo. No, io l'ho conosciuto in altre che era bravo a livello politico, anche calcisticamente se la cava molto. Sì, vabbè, però mi sto annoiando perché speravo in un po' di speravo in un po' di dibattito. Ma dibattito perché perché se dicesse avete avuto solo culo e così ci divertivamo. L'unica cosa, sai cos'è? Tutti d'accordo, sai che parla. È chiaro che quando c'è la sosta natalizia, cioè il giocatore non ci pensa, però chi l'ha provate, non dico che lo fai volontariamente, però a livello inconscio un qualcosa concedi, perché abbiamo una squadra che va in giro per il mondo e quindi... Ma è stata una serata sicuramente, sin dalle prime battute non ho visto un'Inter brillantissima, però questo può capitare nel calcio, era una buonissima opportunità. Però ecco, io non farei neanche troppi drammi, perché insomma, se si avvisa il campionato, mi avessero detto che alla sosta di Natale sarebbe testa alla classifica, avrei filmato una firma lunga 6 km. Quindi io fossi stato in Mancini, avrei eliminato per ordine societario tutto quello che è successo in settimana, cioè dire ricevimenti, sponsor, eccetera, eccetera. Cioè avrei. Ma ci vai bene. Giuseppe, cioè tu non te ne accorgi, le cene e organizzi i viaggi, il ritiro, la pausa natalista dove riprendi la preparazione. È chiaro che poi tu dentro nel gruppo dici: oh ragazzi, è l'ultima partita prima della sosta, diamo tutto. Appunto. Ma non è così scontato. Non è... No, guarda, queste cose qui, a parte che ci sono per tutte le squadre, credo che anche la Lazio abbia avuto. E certo, la Lazio era un po', non dico all'ultima spiaggia, perché non è che si tratta di retrocessione per il momento, eccetera. Era ad un incrocio abbastanza decisivo. C'è una sconfitta rovinosa, magari con l'Inter che ha fatto 4 gol a Udine, eccetera, sarebbe stata dura da digerire. Per cui ha messo forse una concentrazione massima in questa partita. Però ti ripeto, però se non ci fosse stato, poi il calcio è fatto di episodi, non c'è niente da fare. Se non ci fosse stato il Felipe Melo, il pazzo di Felipe Melo, che per carità è un giocatore utilissimo, però io dall'inizio dell'anno dico, non so se ti ricordi Carlo, guardate che questo giocatore è importantissimo per lo spogliatoio e tutto, però qualche danno lo provocherà, e io sono convinto che Mancini, se ieri avesse potuto strozzarlo alla fine della partita, lo avrebbe fatto, forse anzi l'ha fatto. Aggiungo anche che insomma dopo i primi minuti vedevi subito che non eravamo brillantissimi come in altre situazioni, e io ero in una televisione a 20 minuti dalla fine quando mi ha fatto 1-1, mi sono permesso di dire: vista com'era serata, porto a casa l'1-1. Certo, ma certo. Sì, perché chiaro, le sensazioni chiaro. Le senti e le vedi, quindi poi dopo ci ha messo del suo Felipe, perché ha fatto insomma sì, però Beck, spiegami questo, cosa ci fa gli Aici in panchina? Sono 3 settimane, è un mese che diciamo che qua ti aspettavo, non puoi non arrivare lì, cosa ci fa? Per 3 settimane che l'uomo nuovo dell'Inter, quello imprescindibile, quello che accende la scintilla, quello che insomma riesce a cambiare i ritmi, tutti d'accordo, però vedi com'è un episodio, cosa cambia. Ma se la forza di Mancini è stata quella di cambiare formazione ogni settimana, adesso, perché ieri non ha giocato dall'inizio di Alic, si comincia a dire: come mai non ha giocato? Io la posso pensare come te, perché secondo me Icardi, Alic e Jovetic in questo momento erano 3 giocatori che stavano andando bene a Udine, hanno fatto una grande prestazione. Però ecco, adesso si attacca magari che non ha giocato un giocatore, perché tutti aspettavamo Brozovic e Brozo dall'inizio, quindi è solo una domanda, è solo una considerazione. Non dico che Mancini è un somaro per nulla, come ieri ha chiamato un ascoltatore, ha detto che Allegri è un asino, perché credo che ci sia sempre, perché anche la Juve adesso, quando faceva le battute che dicevo, più li vedo lontano e più sono tranquillo per la stima che avevo, la Juve si sapeva che veniva fuori, quindi non mi meraviglia neanche quello. Però a volte bisogna essere chiaro con i giudizi e essere un po' equilibrati, perché ieri noi abbiamo perso con la Lazio, però le prime cose, ecco, Mancini doveva far giocare questo, Mancini doveva far giocare quell'altro. Ma se la forza di Mancini è stata proprio quella che ogni settimana però io vorrei darti ragione fino in fondo, Beck, per un minimo di razionalità che poi c'è nei discorsi, e questo è il discorso razionale, l'ho detto prima, cioè quando ha cambiato e ha vinto nessuno ha detto niente, no? Però oggettivamente l'ultima partita della stagione, cioè ci sarà una scala di valori tra i giocatori dell'Inter, no? Cioè lui considera Ljajic, Brozovic, che non ha giocato ieri, Jovetic, probabilmente più forti, diciamo così, più forti rispetto ad altri. Ultima partita della stagione, puoi andare a più 4. Io me la giocherei con quelli che tu consideri migliori sin dall'inizio. Non lo so, è una sensazione, ti ripeto, poi non è un attacco a Mancini. Io personalmente me la giocherei con questi, però poi non sappiamo quello che succede in settimana, quello che, come vede lui i giocatori, per cui... No, ma ci sta il ragionamento, perché anch'io Jagić in questo momento l'avrei usato dall'inizio, però conoscendo quel poco che conosco io della realtà interista, ti dico che queste scelte sono state la forza di questa squadra. Sì, sì. Perché se lui avesse in mente, secondo me, i 7-8 che puoi contare su di loro, è più facile anche per un allenatore fare il turnover con due giocatori. Ma l'Inter la forza è stata proprio questa, che nessuno, fino alla domenica, nessuno sa di chi gioca. Perché lui ha puntato sul gruppo, tra l'altro a livello di spogliatoio ho notato e ho visto che c'è un grosso gruppo per andare a cercare di fare risultati. Sì. Quindi ci possono stare magari delle scelte che non possiamo essere d'accordo, però ecco, il cambiare, il vedere, se lui avesse in mente oppure 7-8 giocatori, sì, ok, questo è lo zoccolo duro della squadra e poi abbiamo delle alternative. Ma non è così. E guarda la stessa cosa con Montoya, che per 4 mesi non ha giocato, ha giocato benissimo bene, ieri sera meno bene, però ecco, questo è lo spirito che ha creato lui. Ma se lui avesse le idee, che fosse convinto di 7-8 giocatori per lo zoccolo duro, secondo me parte da quei 7-8. Sì, non lo so, però ripeto, c'è la questione dell'ultima partita, poi bisogna dire, c'è l'ultima partita dell'anno solare prima delle ferie, c'è da dire un'altra cosa, cioè che l'Inter in realtà, al di là del Cagliari, di qualche partita di Coppa Italia, certamente non ha lo stesso stress degli altri, per cui è chiaramente una questione non di affaticamento e non di stress dei giocatori, ma è una questione proprio filosofica, cioè quella che dici tu, cioè il, non dico il tenere tutti sulla corda, il considerare poi alla fine di avere non dei grandissimi campioni, non giocatori insostituibili, esatto. Considerarli tutti uguali, tu dici. Considerarli un po' tutti uguali, il che però oggettivamente non è così, perché Ljajić non è come Biabiani, diciamo. Ma no, ma con tutto rispetto, no, infatti, ma secondo me quelli meno uguali degli altri sono i due centrali che sono la coppia più forte del campionato, il portiere, questi sono quelli meno uguali degli altri, Medel e anche normalmente Felipe Melo, che ieri sera è impazzito. Sì, poi davanti in poi davanti lui alterna a seconda delle sue sensazioni. Quello che succede. Sì, certo che adesso avere la Juventus lì dietro, io tranquillo non starei, perché anche ieri pure la Juventus ha cercato di buttarne via una partita, però ha ragione, vinta, per Calosa da questo punto di vista, cioè se qualcuno doveva pensare che il 21 di dicembre l'Inter aveva 3 punti sulla Juve, mettevi la firma 100 volte, per cui sicuro. Però no, ma io vado oltre, allora ti dico che in questo campionato, allora, altrimenti si stravolge tutto, io credo che sulla carta, per i progetti che hanno Juve, Roma e Napoli, erano quelle più organizzate e più pronte, perché vengono da un progetto di 2 anni. Io credo che i meriti vanno attribuiti all'Inter e alla Fiorentina, che hanno approfittato di questa partenza non felice della Juve, qualche problema con Napoli che ha perso dei punti, quindi Inter e Fiorentina secondo me sono quelle che stanno dando molto di più rispetto al progetto e alla situazione. Poi dopo è chiaro, a me non mi fa paura la Juve, perché la Juve bisogna avere rispetto, perché ha vinto è scontato però, ecco, però già essere lì a combattere con loro, secondo me si sta facendo delle cose straordinarie. No, ma su questo guarda, non c'è dubbio, ho detto più volte una cosa, cioè se in questo meraviglioso contenzioso, in questa tensione fantastica di quest'anno, perché diciamo la verità è meglio questo campionato di qualsiasi altro campionato in cui c'erano 1/2 squadre, ci sono squadre che per il momento fino a gennaio sono in corsa per lo scudetto, 4-5 squadre, anche la Fiorentina alla fine, certo non, molto probabilmente non arriverà prima, però comunque lì è un punto. Allora io dico che se dovesse prevedere l'Inter, cosa che non mi dispiacerebbe personalmente, se dovesse prevedere l'Inter alla fine dell'anno, beh ragazzi, sarebbe una delle più grandi imprese sportive degli ultimi anni, perché questo se vince il Napoli e se vince la Roma, vince la Juve, non dico che è scontato, però come dice Beck, è il frutto di un lavoro di questi anni. Se vince l'Inter è veramente una grandissima impresa sportiva. No, ma io ho detto che l'Inter nel suo modo, Mancini, parliamo della Fiorentina poi, ma l'Inter sì, sarebbe veramente una grande, la Fiorentina sarebbe la sorpresa delle sorprese, si tornerebbe quasi ai campionati vinti dal Verona, dal Cagliari eccetera. L'Inter sarebbe una grandissima impresa sportiva, forse la più grande degli ultimi 15-20 anni in Italia. Ma perché è una squadra rivoluzionaria, proprio per il modo in cui Mancini la sta gestendo. L'anno scorso l'Inter era sotto zero, cioè eravamo forse al punto più basso dell'Inter degli ultimi anni. Cioè dove è rimasto il Milan praticamente? Milan, dove Milan è rimasto? Ha un problema di vabbè, è lunghissimo. Più che il Milan dove è rimasto Sinisa, perché Sinisa lo sappiamo che è uno tosto, però anche lui ha trovato delle difficoltà col Milan, adesso si sta riprendendo un po', però anche lui ha trovato una situazione non facile. Vabbè, non ha, diciamo, la differenza vera è che Mancini va avanti come un amministratore delegato, come il padrone dell'Inter. A livello di finanza ha avuto tutto quello che ha desiderato, è una situazione completamente diversa. Cioè, si è preso quel ruolo. Ecco, esatto, perché ha capito che quest'anno l'ideale sarebbe arrivare, non dico vincere il campionato, però anche lì l'obiettivo è riuscire ad arrivare, certo, in Champions League, quindi fino al terzo posto sarebbe una cosa straordinaria, ecco, per tanti motivi. E Mihajlovic questa situazione, lo sai, non ce l'ha, cioè Mihajlovic deve avere a che fare con Galliani, Berlusconi, il rapporto con Barbara Berlusconi e mister B, i soldi ci sono, non ci sono, ci sono tutta una serie di cose che oggettivamente sono diverse dalla situazione dell'Inter. Questo è evidente. Sentiamo Francesco a provincia di Milano e poi chiudiamo. Francesco, buongiorno. Ciao a tutti, salve a tutti. Allora, da premettere, io sono juventino un po' con la coda bruciata, perché rimango della mia squadra, ma visto le vicissitudini della mia società, ora è ricrescita in una fase particolare. Volevo solamente affermare un mio pensiero, che è quello di dire che non c'è una squadra predominante nel campionato italiano. Per questo non c'è una squadra che ammazza il campionato. Questo è evidente, questo è nei fatti. Quindi, principalmente vedo che una squadra che vince e che perde, penso che la differenza sia la difesa, perché è chiaro che ieri sera, se non c'era un melo della situazione, l'Inter non avrebbe perso. Non sono cose scontate, voglio dire che messe insieme nel campionato. Allora, l'Inter ha la miglior difesa del campionato e per questa ragione grosso modo si trova lì, e io credo che per questa ragione arriverà lì fino in fondo. Senti, una battuta a tutti e due, voi giochereste nelle feste natalizie? Ma sì, ma sono discorsi scontati, ma l'Italia ha bisogno di questa roba qua prima o poi. Io non riesco a capire perché non ci sia un management in grado di capire che è meglio fare per tutto, per lo spettacolo, per la televisione, è meglio fare 10 giorni a gennaio. Come la Serie B, insomma, no? Meglio fare 10 giorni a gennaio piuttosto che non giocare. Che fermarsi 2 settimane adesso. Sì, ma tutta la vita, ma Beck? Non c'è paragone. Beh, non lo so. Tu giocheresti nelle vacanze di Natale? Ah, io sempre, avanti. Sempre. Avanti, sempre. No. Ma poi era l'anno giusto. Era l'anno giusto, c'è un interesse pazzesco. Gli europei, tutto. No, ma era l'anno giusto non solo per l'interesse, anche per gli europei, per finire un po' prima. C'era l'anno giusto per fare un paio di giornate adesso. Ma ormai riesci a programmare tutto. Cioè, una volta nel sosta stai fermo, riprendi e fai il richiamo dalle preparazioni. Chi va? Sai che hai un impegno, sei un professionista, tra l'altro una bella professione come calciatore, quindi va anche a caldo. Ma quindi sì, io andrei dritto. Andrei dritto anch'io. Grazie Beck, ciao. Ciao ragazzi, ciao, una ciao, ciao, ciao Giuseppe, auguri. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Sentiamo, domani Giovanni Capuano, vi lascio a lui. Giorgio Luca, nostro autore, Pietro Accorti in regia, ciao.